No, I met him beat. That's a double safari. Riviera insieme a Malaroy, non sono Royal Era, io sono Bino, sono quello che fumava la canna, fanculo ad ogni pera. Mega, sarà un altro giro.